Hai bisogno del servizio mensa, cioè del pranzo a scuola? O hai bisogno dei servizi pre e post scuola della primaria, cioè di far entrare tuo figlio a scuola prima delle 8:30 o di far uscire tuo figlio dopo le 16:30? Puoi chiedere questi servizi in internet sul portale del Comune di Bologna. Trovi il link qui sotto. Nel portale devi cliccare su Iscrizioni online ai servizi educativi e scolastici del Comune di Bologna. Per chiedere questi servizi in internet ti servono le tue credenziali Federa, Alta Affidabilità o SPID.